Prego. Avanti. Prego. Chi è? Io, ciao, stazione Gufo. Buonasera, Carlo da questa parte. Ciao Carlo, ben sentito. Dove stai trasmettendo? Città di Sassari, Lima Delta. Benissimo, qua zona luna e sole alto. KK, ho capito, no, io sono dall'altra parte. Già ti sento bene però, qua segnale fondo scala. Santiago 9+20, radio Super 5. Ciao Roger, buono, anche se mi arrivi abbastanza chiaro e forte, ti sento abbastanza bene. Sto acceso questa radio che sono 5 anni che non la accendevo. Non l'ho fatta dall'armadio e la sto provando, ed è tutto qui. Non ne ha preso freddo. E per aver preso tanti anni di stallo già sta andando bene, dai. Adesso come scalda si sentirà anche meglio. Eia, eia, no, ma ne ho altre anche radio, ogni tanto le leggo. Le faccio funzionare un paio di ore e poi le ricordo. Ma ne ho tante in mezzo ai finta. E mi hanno stupato a studiare, prova vita. Poi non è che sono tutto a posto, dunque, quando ne ho voglia ogni tanto già l'accendo, capito? Fai bene, quando vuoi entra pure, noi tanto me. Gli amici di Sassari, sempre sul canale 10, più o meno di sera, verso dalle 18 in poi c'è qualcuno, qualche volta la mattina. C'è qualcuno dei vecchi, perché di giovani no, non ce ne sono più. Lo so, sono all'età di 16 anni che sono modulato, prima modulavo la latte rosse, tantissimi anni fa. Sono 66 anni, quanti anni sono? È un bel po' di anni, dai. E dunque, anzi, la passione però già mi è sempre rimasta, non è che, però quando c'è anche altre cose da fare non è che posso stare sempre attaccata alla radio come prima. Prima va bene, c'era anche più gente e era meglio là. Molto probabilmente sì, io qua a Sassari sto modulando da un paio d'anni, perché anche io avevo smesso, però prima modulavo da un altro QTH più lontano da qua, da più di 50 km, per cui con Sassari non è che ci arrivassi bene. Andavo verso Thieri, Olbia, quella zona là, ma non verso Sassari, era molto difficile. E da un paio d'anni così ho ripreso qua, ho fatto una piccola stazione a casa. E niente, giusto perché quando ce l'hai la passione ti rimane sempre e ogni tanto ti va di modulare, quindi eccoci qua. E sicuramente tutti gli altri ti conosceranno, io è la prima volta che ti sento, stazione Gufo se non ricordo male. E niente, io operatore Carlo, nominativo di stazione non ne ho mai avuto, sempre il mio nome, capito? E sono andato avanti così. Perché per un controllo, buonasera. Buonasera, avanti per il controllo. Sì, 1, 2, prova radio, avanti. Marino la Sassari. Buonasera Marino, qua mi arrivi di Santiago 9, la radio è un po' bassina, però già è comprensibile. Benissimo, ciao Carlo, sono come sei sempre, ottimo segnale, 9:15 qui a Ottava, abbastanza bene, la modulazione è ottima, sempre la tua modulazione, bella raffinata. Benissimo, ti ringrazio Carlo e sto facendo delle prove. Ok, ciao, grazie, a stasera, ciao. L'amico del Bocanziere, se non sbaglio, era Gufo Triste. Ok, ciao Carlo, grazie, a stasera sei in caso. Va bene Marino, nel caso ci sentiamo più tardi. Adesso come hai fatto questo passaggio magari ti sei avvicinato meglio al microfono e anche la radio era buona. da queste parti già vai bene, ti ascolto molto bene. Inizio delegato Carlo a stasera, ciao ciao. Ciao ciao, più tardi, avanti gufo. Chi è questo forte forte? Allora, stazione Gufo, se ci sei ancora in ascolto, io ti saluto perché devo fare qualcosina giù in garage e quindi riprendo tra una mezz'oretta. Ci sentiamo, mi ha fatto piacere sentirti, se sei ancora in ascolto, alla prossima o più tardi. Ehi, guarda se mi copi adesso, Carlo, più forte mi sento. Adesso benissimo. Adesso molto meglio, un'altra radio stai usando? No, è la stessa radio, però ho cambiato il microfono, ho messo il ZC MB+5, quello da tavolo. E con questo la radio è proprio chiara chiara, va bene sia di segnale che di radio, adesso super perfetta la stazione. Con questo segnale è molto più chiara e potente. Ehi, è vecchiotta questa radio che c'ho, questa è un pezzo storico, un Washington, è USB, LSB e AM, FM non è A. Però già ne ho anche più forte di questa che c'ha tutto, ma sono troppo complicate, però già le uso lo stesso. Quelle altre sono alcuni tassi, un casino, però funzionano bene lo stesso. Meglio così, dai. Ogni tanto mettile in moto così ti sentiamo, dai, ci fa piacere se entri la sera, così c'è qualcuno in più. Tanto noi verso così dalle 6 sino alle 8 a volte c'è qualcuno. Io non è sempre che ci sono perché lavoro fuori e quindi molte volte faccio i turni di mattina oppure faccio i turni di sera, per cui molte volte di sera non mi è possibile parlare. Però più o meno almeno 2-3 volte a settimana già entro sempre sul 10. Ok, va bene Carlo, mi ha fatto piacere di sentirti e conoscerti via tele. Ce la sentiamo alla prossima, se devi andare vai, intanto io adesso devo fare altre cose. Ok, ciao, buon proseguimento di serata, ciao ciao, hola. Ciao, alle prossime, a risentirci, buona serata, più tardi. 50 all'una, però la vedo qui a 15 euro. Brecco, a terzo binario. Hola, Brecco, un controllo, grazie. Brecco, hola, un controllo, grazie. Buona scala. Me la dai un controllo, per favore, grazie. Sto uscendo bene. 9:10, radio 5. Cappa, e dove ti trovi? In che zona sei? Io mi trovo a Lima Delta. Io sono Patamona. Cappa, già arrivi abbastanza chiaro, bene. Sto provando questa radio perché ce l'avevo 5 anni ferma. E chi sei tu? Stazione Gufo Triste, sono un bel po' che non sto entrando. Ma dai, Triste, dai, devi essere allegro. Per modo di dire, era Triste, non è che... Ma il nominativo originale, così, se no in genere mi chiamano Gufo. E che maracchino stai usando? Non ho gli occhiali adesso, è nuovo, l'avevo comprato e parcheggiato, 250 euro, scontato l'avevo pagato, siccome l'avevo preso due e mi aveva fatto lo sconto. Ma è stazione fissa oppure veicolare? No, stazione fissa me l'ho venduta adesso, un Washington, tanto non lo usavo mai, perfetto, poc'anzi lo stavo provando, perché anche quello era fermo, e se l'ho portato via. Anch'io ho stazione fissa, e anche veicolare, con tanto di frequencimetro, belli nuovi. Ne ho di roba, prima compravo sempre, adesso non ce n'è più voglia. Siccome ne ho troppo, qualcuno me lo sta svendendo. E cosa stai svendendo, dai, se mi interessa? C'è un presidente, però è da controllare, perché qui non c'è nessuno a controllarlo. Una volta che lo accendi, lo metti in funzione, funziona la mezz'oretta e poi esce male. Non so cosa c'ha, boh. E così come lo stai dando? Quanto? Quello è anche 50 euro, è nuovo, è dentro la scatola sua, mi sembra che ancora, perché c'è quello conservato nel soffitto dove c'ho altri baracchini. E quanti canali c'ha, Presidente? Parecchi, non mi ricordo quanto. Quello lì c'è di più, fermo, però se l'ho messo a funzionare già funziona bene. Cioè, già accende, funziona. Ecco, e scambio da vuoi fare? Scambio di cosa? Di altri baracchini? No, so che bene le baracchini, poi c'ho i noiti, c'è fino a un poco di roba, no? Adesso ho venduto quello là perché non so neanche più dove metterli, appoggiarli, capito? Ne ho anche conservati fuori nell'ingresso di una cassapanca, figurati. Io non ho scambiato baracchini, io c'ho la chitarra, c'ho la fisarmonica, c'ho il pianoforte, ne ho roba mia. Ti dico di baracchini. Maestro, scambio, io ho tanta roba, ma non baracchini, capito? A me mi interessa baracchino. Scambio, non mi manca niente, cos'è che mi manca? Va giù tutto, va giù computer, tablet, che cosa mi va giù? Non mi manca niente. Cosa? Chitarra, te ne serve? Pianoforte, fisarmonica. Guarda, la chitarra l'ho comprata per imparare, un mese l'ho venduta subito, perché no, se non c'è passione non ci impari. Capa, va bene, no, beh, se ci penso già, insomma, entra più spesso però. Vabbè, adesso questo lo faccio funzionare, no, non è che ci abbia molto tempo, anche se sono in pensione in casa, però sto sempre facendo, inventando, capito? Non sono il classico tipo che rimane tutta la diffusa, dimmi da come fa, pure che chi non so che vuoi cazzo è, però sono sempre in movimento. Anch'io sono in pensione, però non sono sempre in giro. No, in giro no, e poi d'inverno non è che mi piace assai, Già ce l'ho la macchina, ma è un iato, sono andato dappertutto. Prima facevo l'autista, dunque. Cos'è che mi manca di te? Hai viaggiato? Ora è no che tu ti ridoni, dunque. Mi ha fatto da burlacana di viaggiare. Ehi, dai, ragazzi. Io c'ho l'aereo piccolino, con motore che vola in alto, poi c'ho la barca, e moto, lì tutto c'ho messo. E la moto ce l'ho anche io, ma su, anzi, mi ha venduto il vascone, state la fermo sempre, e già ne ho altre moto, faccio tutto. Basta, a mare, sono roba essiccante che non vi pongo più figli. Vedi, il vascone già era bello, cazzo. E c'è già il prezzo che l'ho dato, l'ho regalato proprio. In più gli ho dato 4 gomme, una sella del ricambio, il parabrezzo e 2 caschi. L'ho regalato a un ragazzo pastore di Calangianus, perché gli serviva per mettere a posto le pecore nei vietoli di campagna. Ho detto, va, ti faccio un regalo, mi dai, dammi il sensazione e portati vicino, fate un massaggio. Ma non l'hai parlato di vero. E che vespone era? 125, 150, 200? Era 125, motore fatto nuovo da Muritu, 150, era un aereo. Andà bene, sì, quello già poteva interessarmi, vedi. Ma l'ho dato, Mariani mi aveva fatto il motore e l'avevo comprato da lui stesso quella moto. Va bene, là. Alla prossima che adesso devo fare cosa, ce la risentiamo, ciao. Ciao Gufo, dai, ci sentiamo, ciao ciao. Che, ciao ciao. Oh là là, Oh là là. Prego, hola, hola, prego, prego, prego, hola, binario 10, prego, prego, hola, breche, breche, canale 10, hola, hola, hola, breche, breche, prego, prego. Attento Marino. Attenzione canale 10. Hola. Tieni avanti. Tieni. Vaffanculo. Cazzo gli ha preso mo cabaletta. Ma tu sei? Ciao, sta facendo male, come vai? Chi è che sta facendo male? Tu, questa radio fea. Radio fea? Boh. Non mi piace. Devo subire Luis. Ah, è un bel compressa. È quello perché siamo vicini, ma non è fea. No, forse era la baracchino che sta facendo così. Oh, vabbè, comunque già ti capisco. Come sei in casa oggi? Sì, perché... Vabbè, c'era l'assistente alle 11, poi la tua cognata la stavi a mezzogiorno, e poi avevo un PC da sistemare, però sistemato e consegnato. Il bagno finito? Sì, adesso mercoledì arriva la box doccia, la dobbiamo piazzare con mio fratello. KK, e vabbè già non è difficile. E vabbè, mi devo sempre essere in due, e poi vabbè, adesso non mi ricordo l'altezza dei tubi, sarà 5 mattonelle mi sa. Non mi ricordo. Vabbè, parto da giù, arrivo alla seconda, mattonella, terza, e poi salto. Se per col tubo sono fregato. Cappa, vabbè. Tu metti mai musichitta in radio, di solito entri più tardi. Non ho capito. Ho detto, ma mai così presto in radio, di solito entri più tardi. Sì, perché stavo facendo un contest, ho finito, adesso non avevo più voglia di cantare. Se non mi ricordo, quale avete voi già nel computer le cose per cantare? Va Vasco? Nel computer? No, io li cerco direttamente su YouTube le canzoni che voglio e poi le metto. Sì, ma la tua compagna cosa usa di programma? Ne avevo uno, ma non mi ricordo il nome, mannaggia, era bello, è carino. Stava benissimo, vado per casa, non è che lo devo portare chissà dove. Prima avevamo Van Basco tutti e due, ma devi stare tre ore a cercarla, mentre invece quando tu vuoi una canzone vai su YouTube, ti metti la canzone che vuoi e te la canti, invece Van Basco devi stare tutta a scorrere a cercarla. No, chi così, Io sono come Androni. Tu hai ragione. Vabbè. Fai prima, Aru, fai prima. Per te un macco. Metti per dire il titolo della canzone, su, metti su Google e te la dà. Lo metti su YouTube, è la stessa cosa. Ti metti il titolo e ti dà la canzone. Poi io col Bluetooth canto, col microfono che è il Bluetooth canto, capito? Certo, certo. Mio casino. Che cazzo è successo? Queste cose rosse. Non lo so. Ho queste cartelle con la X rossa e mi dice che praticamente sono come se fossero, cioè che abbiano un nome uguale. Non esce la radice, esce a vedere, allora. Sembra non esce. Adesso non bacio adesso con la X rossa. Uno si dice è un po' strano, per carità. Vabbè, lo lascio così, me la fa più nulla. Appaga. Quindi è brutta questa radio, lui. Non è che sia brutta, vabbè, boh. Ascoltati sempre con quella là. E sentiti con questa è un po' strana, capito? Non è, non so ciò che è brutta, è troppo compressa. Perché siamo vicini, questo qua è un microfono che spinge, capito? Se non ce l'ho al massimo, ce l'ho al minimo. Aspetta che aggancio il 3009, dai, così ti ascolto con la cassa esterna. Cava, cava. Anzi no, già, lo volevo lasciare un po' attaccato questo qua, vediamo. Si sta, può scaldare un po', ma adesso sta andando bene comunque. Tu mi ascolti bene, sì? Sì, questo qua che cos'è? Il Typhoon. Ega. Questo è il Typhoon, è il Typhoonio. Vabbè, non è per attaccare al Typhoon la cassa, per sentire. Al telefono? La cassa al Typhoon, non la puoi attaccare. Posso anche farlo, aspetta. Prova già. Guarda con la cassa per vedere come mi ascolta. Decisamente meglio. Magari anche il tipo di... che cosa? Di colonnina che c'hai là, capito? Cosa stavo dicendo? Perché l'ho venduto sul coso, le... ma cacchio si chiamava? Sintec, la stessa le base, quella che l'abbiamo messo in uscibito, non ricordo. Ah, sì? E ho venduto full. Hai visto? Sono un attimo già, devo sentire di... dei messaggi da fate di... non a te, devo ascoltarli io su WhatsApp, passo un attimo. Yeah. A posto già. Chi è che c'è un basso che sta chiamando? Chi sei? No, non ti capisco, sei bassissimo di radio, non riesco a capire chi sei. Luca, lo ascolti tu? No, non arriva proprio qua. Guarda, ma guarda qualche cosa perché non ti ascolto di radio, sei basso, ma a livello QRM. Questa roba della che fendi. A vero? Sì, intendi, non si sente. Mi aspetto. La senti? E qua era la tappa di tutto, ha serrato tutto canto, quindi non vedo nulla, e ha abbassato tutte le serrande, perché già l'aveva detto che doveva fare tra oggi e domani tipo uragano. Ma c'è così accesi, i termosifoni accesi? Termosifoni no ancora. Ah, adesso male che cotta ancora già. Ah, ci stiamo uscendo a male che cose, perché sta più freddo adesso, se no non c'è freddo, dai. Noi siamo anche fortunati, lui, in continente arrivi sugli alarivi, grandi latte di quelle tipo palle, cazzo, ha spaccato i vetri delle macchine, fatti il gonto. Allora, aspetta Marina al telefono già. Cosa? Aspetta che ho Marina al telefono già, un attimo. Avanti l'amico che stava cercando di entrare poco fa, si era rimediato. Gianni. Un attimo da solo e che devo spegnere il telefono. Che è avanti? Già, se sono Gavino. Poi c'è Gavino, vabbè. Andate sì a prendere il piede. Sì, Gianni, sì. Niente. Ti volevo chiedere. Questo è un altro apparato. Oh, che apparato? Un 3009 Superstar. Sì, bene, già va bene. Anch'io ce l'ho con lui. Ce l'ho anche io e va molto bene. Sto usando un microfono Midland del 48. Ha una bella radio, capì? Quell'apparecchio lì, qualsiasi microfono metti va bene. Io ho anche l'originale del Superstar, quello del Superstar mi fa uscire con una voce un po' nasina, invece gli ho messo un microfono amplificato e c'è una bomba. E adesso devo vedere un po' di cose qua. Guarda un pochino, allora. Adesso sono liscio liscio. Sì, sto facendo bene di radio, qui in Santiago c'è un altro apparecchio, quindi non te lo do il segnale perché è un po' gurrimizzo questo qua. E vabbè, ma la radio arriva. Ho voglia che arriva, ma tu eri poco fa quando quella radio bassa bassa. Sì, ero io che stavo saldando il PL già. Praticamente capisci, sentivo un bisbiglio ma non si capiva cosa dicevi, capito? Era bassa, bassa, bassa, è come se venisse dall'oltretomba. Sì, no, era il... stavo cercando il PL, dai, il cavo del microfono. Cappa. Ma l'hai comprato questo qua, nuovo? No, questo qua l'ho preso usato. Questo qua l'ho preso usato, ma è nuovo, è impeccabile. Sì, ci puoi mettere un microfono lì e va molto bene. Ma comunque la radio, cioè la voce tua, praticamente, cioè, come verticale si sì, fa bene, va bene. Ehi, la sua mi è sposto sul 12, aveva il stazionario un pochino. Ehi, Luca, aiuto, amo leggendo al telefono, stai lì. Non lo so. Dove c'è, Gavi? Sto... attaccato le stazionarie a due, quando parlo scendono a uno e uno. Ma il piede se l'è fatto bene. Sì, sono fatti bene i PL. Sono fatti bene i PL. Devo vedere un attimino, c'è un PL... aspetta. Beh, erano difettosi o no i PL? No, già, non erano difettosi, erano di quelli belli. Erano di quei PL belli che... dai, belli. Non erano difettosi. Ma in bacchinite sono? No, non sono in bacchinite. Quelli in plastica non mi piace. Perché va a saldare, se scalda per la di più si chiude la plastica e gira tutto. Lo so, devi essere pronto lì con l'adattore. Però è un casino da fare. Dove sta a fare? È un casino da fare, devo provare una cosa. Prova a dirmi cosa stai facendo. Cosa? Già. Dimmi cosa stai combinando. Devo, in pratica attaccato sono 1-1. Sono 1-1. Però quando attacco mi trovo... Lascia vedere come è che... il microfono, no? Eccolo qua. Capì, ma è normale se tu attacchi che salga di stazionarie, non è 1-2, 1-3 te le deve dare se attacchi. Non le deve dare. Allora se io metto il microfono ti dà picchi al wattmetro, perché sono sotto rosmetro, capì? Sto provando. Ehi, cioè mi dà picchi negativi al rosmetro, ti segui? Cappa. Adesso lo guardo anche col baracchino, allora. Non era questa roba qua? Se vuoi rettare. Vabbè, cos'è? Faccio vedere. È un po' meno. dove dammi un attimo di tempo che cambio apparato, perché qua se no mi incazzo davvero. Vabbè, aspetta che cambio l'apparato. E io che? Eccomi! Gavi, tu sì? Sì, positivo. Vabbè, negativo con attacchi quell'aggeggio. Cosa già? Ho detto vai negativo quando attacchi l'aggeggio. È positivo. Boh, non capisco. Con quanti volt esce quel 3009? Non lo so se è pompato, se non è pompato, boh. Comunque, allora, le stazionarie e modulazione vanno a 1 e 4. E quando lascio solo importante sono a 2, capito? E... boh, non lo so, dovrebbe fare il contrario, modulando dovrebbe salire, importante dovrebbe scendere. Appunto, secondo me ha fatto male lo spezzone, corri, controllalo. Dall'apparato tu dici. Aspetta a vedere. Lo spezzone che hai fatto, l'ultimo che hai fatto, sicuramente c'è qualche problema lì, o tocca qualche filo, qualche problema c'è. Hai qualche altro spezzone per provarlo? Sì che ce l'ho, però se stacco è tutto a posto. Il problema è il l'aggeggetto. Allora, lo spessore che va dal, dal coso, dal, dall'aggeggetto all'apparato, quello lì devi guardare. Ora. Funziona, ma no, non mi fido, da, sta col 3009. E anche io sto usando il 3009. È superstar 3009, quello con la mascherina grigia. Positivo. Adesso aggancio quella, aspetta. Lucrezia. Sta agganciando il 3009. Ah, KK. E ora entriamo tutti col 3009. Anche tu il 3009 hai. No, adesso non ce l'ho attaccato, però ce l'ho qua, nuovo il mio. Attacca. Aspetta. Comunque Gavin, sappilo che lo Switzer del 3009 è un po'... non è giusto, dai. No, ma io sto usando il rosmetro, Sono attaccato sotto il rosmetro, quindi non sto guardando quello del 3009. Aspetta. Decisamente meglio, ti ascolto con questa, dai. Adesso sto usando il 3009. Quanto ti arrivo, Gavio? Fa un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 7. 7 lui. Poi non so, l'ho preso oggi questo 3009, non lo, lo sto provando. Non so se è giusto, se è giusto di smettere o cosa. Ah, va bene, ora adesso ho aumentato qualcosa. Prova. 9. Beh, la radio è buona, sì. Ottima, ottima, ottima, bella Luca, bella, sì sì. Tu considera che sto già un 3009 con un microfono Midland originale del 48, non ho un microfono amplificato. Ah, sì, bella la radio, però sono ottimi questi monacchini. L'unico difetto, c'è sgancio. L'unico difetto c'è di questi monacchini, cos'è? Che hanno il dissipatore dietro. È positivo, neanche io sono sganciato, sono solo il radio adesso. E sta dando. Sta dando 6 watt. Capito. Non andava, va bene. Perché questa qua da pochi watt lo stesso, 4 mi sa, 4 watt. E poi se aggancio, come si dice? Se aggancio mi sa da 50, circa una cinquantina di watt. Caragara, eccomi qua! Ecco, ecco, a voi, ecco, voi, ecco, Gavino, Gavino, Gavino, Gavino, Gavino, Gavino, Gavino. Ma tu c'è la scheda, ecco pure. Noi siamo originali, come mamma ha fatto. No, Gavi, questo qui è il microfono, che scheda, ecco. C'è un microfono con l'ecco. È bello, bello, bello, bello. Il bip andando andato da questo qua. Oh, l'ho preso stasera il tuo baracchino. Sta andando il bip. K che va. Ho capito, ho capito. Allora, analogico, NB analogico, cos'è questo NB analogico? NB è il filtro, dai. Ah, positivo, adesso l'ho messo in on. L'ho messo in on. Però anche le bande laterali, già l'hai visto, sì. Sì, sì, sì, sì. Il tuo lu nuovo. Quando l'ho comprato, no. Dalle foto sembrava nuovo, capito? Non ha fatto le foto fatte bene. Poi quando è arrivata tutto i coperchi graffiati, anche la mascherina, poi Gianni mi ha venduto la mascherina, qualche manopola buona e coperchi nuovi, adesso è nuovo nuovo il mio. Questo qua è impeccabile, questo qua è impeccabile la radio. E l'ho pagata un'occasione, ma occasione, occasione, occasione, un amico, è impeccabile, bella. Ah, questa qua mi è venuta con la spedizione 115 euro, se non mi ricordo male, 125 se non mi ricordo. Poi vabbè, era normale, io ho levato il jump e ho fatto, aspetta che abbasso qua, e ho fatto aumentare di canali, dai. Poi ho aumentato i watt, mi sono regolato lo smitter, ho cambiato la lampadina, ho levato la quella bianca e ho messo il led blu. 45 con l'MB più 4. 45 euro? Sì, con l'MB più 4. Che sono affari? Cioè, non affari, ho di più. Questi sono affari, vedi? Lo so, vabbè, me l'ha dato un amico, non... lo stava dando di più. Però me l'ha dato un amico e... mi ha detto la sua a te perché so che la tieni bene. Io non la sto usando e temo che si rovini, capito? Quindi ho detto, mi dai, guarda, il prezzo giusto che la sto facendo a te. Quello devi non darlo, perché veramente io questo qua non lo venderei mai. A parte non c'è neanche in commercio. E poi qua costicchia, costicchia. E poi vabbè, poi mi sono preso 747 da un amico, 50 euro. E c'ho 3009, il Typhoon e poi il come si chiama? L'Intec MB40. Non ne ho altre radio. C'avevo il Typhoon 2 modificato Colt e l'ho venduto. Luca! Il 3009 e l'ICOM il 737. Insomma l'ultimo qua attaccato con il 747 con capito. Ehi, dimmi già. La radio questa com'è? Buona, fa passaggio. One, two, three, four, questo qui è il microfono che abbiamo cambiato la capsula. Va bene, ti ascolto benissimo. Cap. Questo qui è il 3009, siamo tutti e tre col 3009 stasera. È positivo, è bella come radio. Ehi, è bella, questo qui va bene, amplificato il microfono, però considera che anche col suo esce bene. E adesso io me lo faccio l'MP4 perché è smontato, ho capito, e devo fare una modifica che poi vi dico. Devo mettere la capsula dello show dentro. Io invece qua c'ho la capsula di un microfono antico, dai, non mi ricordo come si chiamava, però usciva un bel bene. La capsula l'ho recuperata da tutte le attrezzature che ci avevo in mezzo, l'ho trovata e me la sono piazzata. E vedo che va bene. Sì, sì. L'unica cosa è il bello, trovarsi e fare il... dai, con le stesse radio. Cappa, fare le comparazioni, sta dicendo. È positivo. Sì, ma devi anche calcolare che devi essere nella stessa zona, eccetera, eccetera, allora, se no non si possono fare, capi? Se sei nella stessa zona puoi farle, per vedere chi arriva più forte, sta dicendo. No, non perché arriva più forte, per sapere che sono tutti e tre con la stessa radio, che ci sono ancora radio così che stanno girando, cioè tre persone hanno la stessa radio uguale e la stanno usando, addirittura con Luca abbiamo la stessa radio e lo stesso aiuto. Capo. Sì, allora l'MVP4 mi è modificato. Con questa radio quanto ti arrivo, Gavi? Questa qui vabbè c'ha 6 watt più o meno, 5 watt, 6 watt, non lo so, è omologata questa. A me mi dà segnale tra il verde e il rosso, 9 più di 5 dovrebbe essere. Cappa, ho capito, va bene, già, così va meglio. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. Fondo scala, mi sembra, quasi fondo scala. Nell'ultima riga il rosso dove c'è il trattino. Già va bene allora. Comunque questo qui è un bel apparato, diciamo che sono apparati che sono fatti con le vecchie maniere, circuito PLL, ci si può lavorare se succede qualche cosa, ma sono apparati che durano, poi se lo metti in macchina non prende splatter, non si sentono rumori di sottofondo, cosa che apparati che pompi adesso si sente quel REM in macchina eccetera. Questo qui è proprio silenzioso. Sì, sì, già vanno bene, già sono belli. Il mio segnale com'è con quella radio da te già? Prova, capito? Ehi, com'è? Guarda un pochino. Santiago 9 sta arrivando qua, ma non è da considerare, io so che questi smitter qua non sono mai giusti, quindi nemmeno io l'ho comprato dalla casa questo qua, perché la verità me ne aveva venduto uno Eugenio, nuovo, c'aveva ancora la carta adesiva sopra, però boh, non lo so, io sono gubignolo, ho preso e questo qui me l'hanno chiesto, l'ho venduto e me lo sono ricomprato nuovo, aggiungendo 20 euro l'ho comprato nuovo di zecca. Scusa, ho aperto un po' la porta. Sì. No, già sono... Questo qua, se tu lo vedi, è impeccabile, cioè non ha un graffio. È così che si tengono le radio, perché le mie non ne trovi una graffiata? Vabbè, perché io le tengo ferme. Praticamente io nei ripiani ho messo radio, tutto quello che serve, strumenti e cose, e le radio praticamente ho girato la staffa, l'ho messa come poggiapiede, e sotto la staffa ho messo il mio adesivo, di modo che non si muovono quando tiro il microfono. E sono tutte quante bloccate, quindi è impossibile che si graffino. Ci dovrei andare con qualche cosa per graffiarle. Qua restano le spolvere ogni tanto, anche se il mobile è chiuso, quindi polvere poca ne prendono. È positivo. Aspetta già un attimino che devo controllare una cosa qua. Le prendi, Luca? Beh, ci tengono conto sì la radio. No, anche questa qua è nuova. Io c'ho anche, vabbè, notturno, adesso per dire sono con le luci notturne blu, c'ho tutta la stazione con le luci riposanti, dai, i LED. Andava sì, anche perché non mi dà fastidio agli occhi, capito? L'abbiamo messo. E tu non mi voglio sentire, adesso prendo le cuffie e me le metto a vedere come esco con questo microfono. È più forte di come la prima, vero questo microfono? Sì, non ricordo io, sì. Sì, va bene, chiara, chiara, non c'è problemi già. Aspetta un attimo, vado in bagno, arrivo subito. E invece l'altra mi dicevano che era cupa, mi dicevano che era un po' cupa, e sono anche coricato, posso avere la voce nasina perché sono coricato, sono gradulori. Tanti, buonasera. Oh, buonasera signor Carlo, come andiamo? Gianni, bagnato, mi sono rientrato da poco. Io ho pensato stasera, dico la verità, ho detto chissà se Carlo non sta entrando per quel problema là. No, perché ancora sono, stanno diciamo proseguendo nell'altra parete, quindi ancora ce li ho un po' distanti, quando arrivano da questa parte dovrò staccare il filo dell'antenna. Completamente? Lo sfilo, però mi ho già passato il corrugato e tutto quanto, e addirittura dentro il corrugato che ho messo ci passa il cavo con lo spinotto saldato, e quindi non devo scollegare niente, capito? Ah bene, l'hai messo largo, capito, hai fatto bene, dai. E come l'hai fissato? Al muro l'hai messo il corrugato? Esatto, avevo già il foro nella parete, però l'ho allargato, ho preso un corrugato grosso e ci passa addirittura il cavo con lo spinotto saldato abbondantemente, capito? Eia eia, ho capito, e va bene, dai. Andava meglio così, dai, che riesci a risolverlo, ma tanto non sarà per molto tempo che dovrai staccarti. No, penso pochi giorni, cioè una volta che passano lì e poi rifiniscono, una volta che rifiniscono infilo tutto, il filo lo stacco, poi salgo su, lo piego, lo metto dentro un bustone, capito, e lo metto sopra al tettuccio di questa casetta che non devono toccare, dove c'è l'antenna, e lì rimane, poi quando finiscono il lavoro non mi rimane che risalire, portarlo giù, capito, e niente, rifilo tutto, ma penso nel giro di, no, fa esagerando, una settimana massimo faccio tutto. Sì, sì, e infatti ti volevo dare quel consiglio lì di non toglierlo dall'antenna, di piegarlo, magari lasciarlo su, che tanto non dà fastidio, lo metti in una busta e rimane coperto, dai. Sì, sì, stasera ero acceso un attimino, ho sentito un brecco, ho detto avanti, chi è? Stazione Gufo, Lima Delta, l'Alte Dolce, voce molto molto matura. Sì, sì, Gufo, caspita, e infatti l'altro giorno stavo pensando proprio che non l'avevo più sentito. Sì, sì, io lo conosco a Gufo, è una persona già grande, sì, ma è modulo, è anche molto simpatico, parla molto, cucina bene, sta sempre parlando di piatti che fa, è una persona molto in gamba. Ti ho parlato un pochettino, stava, mi ha detto che era da molto che non accendeva le radio, che ne ha un sacco e quindi stava provando. Poi ha collegato un microfono da tavolo, l'MB più 5 penso, e andava benissimo, cioè qua lo sentivo molto molto bene, sia di segnale che di radio. Sì, sì, Graziano si chiama di nome. Io non l'avevo mai sentito, infatti. Ho detto entra qualche sera, ho detto che noi siamo su, sempre qua, già lo saprai, sul 10, e qualche sera così, se ce ne entra uno in più meglio. E poi è un bel simpatico, ti fa ridere, è troppo simpatico, perché ha queste uscite in sassarese, ti fa crepare. Meglio così, se ce n'è gente simpatica che vuole entrare. Stai usando il Galaxy? No, sto usando il 3009 in questo momento. Ma perché col beep mi sembra tipo quello del Galaxy. L'era è la stessa quando li hanno fatti. Se l'era è la stessa. Sì, no, no, questo qui è il 3009 con quel microfono che ti ho detto che dovevo adattare. Va bene, bene, e te l'ha fatto Luca? Appa. Bene mela, e quindi adesso sta funzionando bene. Ha voglia. L'abbiamo cambiato anche la capsula, gli ho messo una capsula di vecchia era, di quelle. Di quelle buone, dai, di quelle capsule Forse sarà un po' metallica, non lo so, però sono quelle capsule buone che usa anche il Tanner, eccetera, eccetera. A me mi sentirei un po' nasale perché ho in questo periodo un po' di sinusite, mi si chiude il naso a volte, capito? E quindi ho una narice chiusa e l'altra aperta. Cavolo, quando è brutto io l'ho passata la sinusite, quando andavo a pescare di notte mi avevo preso la sinusite, mi prendeva tutta la parte della faccia, una volta sono andato con l'occhio chiuso al pronto soccorso perché non ce la facevo più dal dolore, da morire, prendeva il naso, una parte del naso, tutta la parte della faccia, la fronte, il sopracciglio, mi prendeva così, ma dolori, poi non ne ho più avuto, dopo che ho smesso di andare di notte non ne ho più avuto, perché io ero azzardato, ci andavo in motorino, ci andavo con la canna in motorino e andavo di notte a pescare, se prendevo qualche pezzo grosso grosso non sapevo manco dove mettermelo. Ma io sono già almeno una decina di giorni con questo problema, mi cola il naso, se esco fuori di casa sto un po' meglio all'aria aperta, ma quando sei dentro inizia a colarti il naso, soffi, risoffi, tutto il giorno così. Guarda che c'è uno spray, non so se tu lo sai, c'è uno spray che si spruzza nel naso perché praticamente sono i sedi del naso che sono infiammati, non è altro che quello, capito? La bamba. Ho capito, sì, lo so, come si chiama, già l'ho usato una volta, ma non ne ho adesso, c'ho solo un po' di Vicks che mi apre appena il naso di notte per almeno dormo tranquillo che riesco a respirare. Troppo avanti che stava sovramodulando. Già, no, niente, boh. 2 e modulazione 1,5. E niente, non ci posso fare nulla. Vabbè, ma tu devi calcolare quello che ti dà modulazione, capito? Io guarda, non ho mai sentito una cosa del genere, sinceramente in tanti anni che ho gli apparati, una cosa del genere non me l'ha mai fatta, mai. Sì, picchi negativi, sì, e dopo magari controllavo lo spezzone, era saldato male il piede e poi lo rifacevo e andava bene. Però questa storia qui non l'ho mai sentita, Gabi, sinceramente non ti posso aiutare perché non so dove. Ho pensato allo spezzone, ma non è quello. No, non lo so. Dai, vediamo un po', vedo un po'. Noto che mi dà i picchi negativi in modulazione, secondo me è il microfono. Secondo me è il microfono. Dici? Eh sì, perché se abbasso il mic gain non mi dà picchi negativi. Rimane fisso anche il watt a una certa potenza per guidare stazionare a 2 che ci potrebbe stare molto attaccato, però per stazionare a 2 ci possono essere anche diciamo accettabili. Gavi, è un po' alta, a 2 sono alte le stazionarie, 1,5 puoi accettarle, ma 2 è già troppo. Vabbè, comunque vedi tu, avanti Luca. Luca, avanti Carlo, non l'hai saputo se hanno dato l'esame i nostri CB come radioamatore? No Gianni, buonasera all'amico che è entrato a proposito, stavo subito rispondendo a Gianni. Niente, no, non ho saputo niente perché in questo periodo non è che stavo modulando tra